canarie, tutto il giardino adorava di rosa cento passo. Era di maggio in oro, me ne scordo, una canzone cantava ma due voce. Chio tempo passa, chio me ne frescherà l'aria e la canzone dolce. E diceva cuore, cuore, cuore mio lontano vai, tu me lasci con dolore, chissà quando tornerai. Rispondeva i tornaraggi, quando torno non li rose, si stuggiore torno a maggio, pur a maggio stonga qua. Si stuggiore torno a maggio, pur a maggio stonga qua. Thank you.